Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ancora dopo una settimana, come sempre, qui dalle 14 alle 15. E io vi chiedo ogni volta di raccontare qual è stata secondo voi la notizia della settimana, di commentare i fatti dei giorni che sono appena passati. È inevitabile dire, insomma, purtroppo sotto gli occhi di tutti, che questa settimana è stata completamente dominata e pervasa purtroppo dalla tragedia che ha colpito l'Abruzzo e ovviamente anche tutta la nazione, no? È stato detto tante volte in questi giorni che noi italiani siamo come siamo, con tutti i nostri difetti, i nostri limiti, però nei momenti delle tragedie, delle catastrofi, ritroviamo miracolosamente questa solidità, questa unità nazionale, questa coesione. Anche è successo a livello politico, insomma, almeno in questi giorni, così, davanti a questa grande, grande tragedia. Quindi io, come sempre, vi chiederò di prendere liberamente la parola, di raccontare secondo voi qual è il fatto che più vi ha colpito della settimana, anche se mi sembra ovvio che il terremoto in Abruzzo sia il fatto, purtroppo, della settimana e non solo di questa settimana. Per ora, insomma, in questi primi 9 anni del nuovo secolo, la tragedia più grande che l'Italia ha conosciuto. Quindi comunque il numero verde ve lo ricordo per i vostri interventi, se volete ritornare su questo argomento, se avete le vostre riflessioni da fare, dei suggerimenti, dei pensieri che vi sono rimasti, insomma, impigliati così nella mente e avete voglia di esporli qui liberamente, tanto siamo insieme fino alle 15, 800 24 00 24 è il numero verde, lo ripeto, 800 24 00 24. E come sempre ho scelto anche per questa puntata quello che io definisco l'opinionista del momento, dell'attimo, dell'ora di questa trasmissione. Oggi è Ermanno Bencivenga, che è noto filosofo, uno dei più noti anche all'estero tra gli italiani, professore ordinario di filosofia dell'Università di California, vive a Irvine e ha scritto, appena pubblicato, un libro che in questo momento, insomma, suona particolarmente emblematico, La dimostrazione di Dio, pubblicato da Mondadori. Intanto lo saluto, Ermanno Bencivenga, anche perché praticamente abbiamo strappato al cuscino le lenzuola. Ermanno, benvenuto. Ciao. È direttamente dalla California e se qui sono... Molto piacere di sentirti. Grazie, piacere reciproco. Sono le 14:04, quindi significa che da te in questo momento sono in California le 5 di mattina, 5:05, insomma. Sì, le 5 del mattino. Le 5 del mattino. Hai bevuto un caffè, un tè, qualcosa che ti... Sì, ho preso un caffè, grazie. Va bene, caro Ermanno. Tu ovviamente anche dalla California avrai sentito cosa è successo, se ne è parlato un po' in tutto il mondo, ma forse il primo... Così, possiamo dire, la prima dichiarazione di solidarietà molto toccante è stata quella di Obama, perché gli Stati Uniti hanno cominciato, le TV statunitensi, subito il terremoto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, praticamente lunedì all'alba, 6 aprile, e le televisioni statunitensi già dalle primissime ore della mattina avevano cominciato a trasmettere, no, le immagini dall'Abruzzo, le notizie in diretta o in certi casi in differita. Tu le avevi seguite, avevi... E subito stato al corrente di quello che era successo, Ermanno? Sì, guarda, qui la copertura è stata veramente molto approfondita e molto ampia. Io seguo CNN tutte le mattine, mm-hmm. quindi la notizia l'ho avuta subito, poi è continuata sulle prime pagine dei giornali, io leggo il Los Angeles Times quotidianamente, su internet, con molta attenzione, come sempre capita negli Stati Uniti, al caso umano, insomma, per cui c'erano interviste in prima pagina alle persone che appunto a questo punto sono nelle tendopoli, in quello che avevano perso, i loro dolori, le loro speranze, identificate spesso per nome. Quindi c'è molta vicinanza, anche vicinanza, sì, presente nell'immaginario degli Stati Uniti. Infatti, perché ci sono state amici, colleghi di lavoro, eccetera, nel giro di qualche ora lo sapevano e mi hanno appunto chiesto se avevo parenti, se avevo cari, insomma. Perché tra l'altro ci sono state ovviamente di recente anche tragedie in Bangladesh, in Pakistan, però è vero, leggevo che l'Italia nell'immaginario americano, a parte tutti gli italo-americani che ci sono negli Stati Uniti, però c'è anche grande affetto, l'Italia è uno dei paesi più frequentati per turismo dagli americani, quindi c'è una maggiore vicinanza rispetto ad altri paesi anche quando succedono queste cose, no, Ermanno? Questo è senz'altro vero. Devo dire che ormai viviamo in un'epoca di informazione globale e quindi soprattutto seguendo una rete come CNN, il mondo è veramente il palcoscenico sul quale ci si muove e le notizie arrivano, diciamo, in tempo reale, praticamente dappertutto. Ora vi ricordo appunto che Ermanno Bencivenga è in collegamento diretto dalla California in questo momento e rimarrà con noi insieme fino alle 15, anche se da lui ovviamente c'è un altro fuso orario, siamo con, mi pare, 8 ore di differenza, giusto? Il mio calcolo matematico in questo momento, lì sono quindi le 5 di mattina. Ricordavo appunto il libro che ha appena pubblicato Ermanno Bencivenga, La dimostrazione di Dio, come la filosofia ha cercato di capire la fede, e Ermanno fa questo excursus lungo i più di 2000 anni dei grandi pensatori occidentali che hanno cercato, insomma, di sondare il mistero del divino con gli strumenti della ragione, del dibattito, della logica argomentativa. Poi ci torneremo, ma intanto vi ricordo il numero verde per voi ascoltatori, 800 24 00 24. Io mi collegherei però come sempre all'inizio con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. A vedere quello che è successo in Abruzzo, anche da quassù, da Marte, insomma, c'è poco da dire sulla tragedia, sul dolore, ma forse quelle centinaia di scosse, dette sciame, che continuavano ininterrotte da gennaio, centinaia, sapendo quanto sia a rischio sismico l'Italia, in particolare certi territori, non erano proprio da ignorare. Forse non è azzardato dire che sono state quantomeno sottovalutate. D'accordo, si ribadisce che un terremoto non è prevedibile, d'accordo. Ma è prevedibile tuttavia in una nazione sismica come l'Italia che terremoti ce ne saranno ancora. Ed è prevedibile quello che può succedere, che è successo, se non si prendono le dovute precauzioni, per esempio nel costruire gli edifici. Ed è prevedibile che, per esempio, una casa per gli studenti, se non edificata con tutti i crismi e quindi per irresponsabilità diffuse, si possa facilmente trasformare in una fossa comune. Ermanno, nei tristi aggiornamenti che arrivano dall'Abruzzo, forse l'avrei sentito, sono 291 le vittime per il momento, ma si scava ancora e si troveranno probabilmente altri corpi, 40.000 gli sfollati. Ora, riferendomi un po' al titolo del tuo libro, La dimostrazione di Dio, in una tragedia del genere, secondo te questa tragedia rappresenta la dimostrazione dell'esistenza di Dio o della non esistenza di Dio, o cosa? Ma guarda, ovviamente di questo si può parlare in termini anche umani e ne parleremo. Per quanto riguarda l'argomento del mio libro, senz'altro questo evento pone il problema del cosiddetto male fisico che io affronto nel terzo capitolo, cioè l'idea che un Dio onnipotente e benevolo in qualche modo non dovrebbe permettere catastrofi di questo genere. Infatti è noto che Leibniz appunto pensava che questo fosse il nostro, il migliore dei mondi possibili, ed è noto che Voltaire nel suo Candide avesse messo in caricatura questa cosa, in particolare facendo notare eventi come il terremoto di Lisbona del 1755, durante il quale morirono decine di migliaia di persone, e quindi in qualche modo trovava questo incompatibile con l'esistenza di un Dio onnipotente e benevolo. Io vi ricordo, se volete, voi ascoltatori e ascoltatrici, anche altre notizie della settimana, sebbene appunto questo sia purtroppo l'argomento dominante. Si parla ovviamente sempre in qualche modo di crisi a livello nazionale, internazionale. Ieri Banca Italia diceva che nonostante, insomma, la recessione c'è, la crisi c'è, qualche piccolo spiraglio per l'Italia si vede, così anche lo confermava l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Sulla pagina estera, l'Algeria, dove ha stravinto Bouteflika, il presidente uscente, insomma, qualcuno si fa venire i sospetti di brogli, visto che al terzo mandato, dopo 10 anni di governo, adesso ne ha avanti altri 5 anni. In Georgia continuano le proteste contro il presidente della Georgia, che è accusato da una larga parte della popolazione georgiana dell'insuccesso militare della scorsa estate contro la Russia e di non rispettare i diritti umani. Poi in Perù, sapete, a proposito dei diritti umani, che è stato l'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, di 70 anni, è stato condannato a 25 anni di carcere per violazione dei diritti umani nel periodo in cui ha governato, dal 1990 al 2000. Poi invece in Italia altri casi di cronaca, per esempio i due agenti della Polfer, cioè della polizia ferroviaria giudiziaria, accusati a Milano di aver pestato a morte un barbone. Ieri il figlio giovanissimo, un ragazzino di 13 anni di un boss che si è suicidato, si è impiccato perché non perdonava il padre di aver portato sulla cattiva strada il fratello maggiore, che poi era morto a 14 anni. Insomma, ce ne sono tante di notizie, però adesso vorrei che voi sceglieste liberamente, insomma, di cosa parlare all'800 24 00 24. C'era Giuseppe da Milano, che credo sia caduto, ogni tanto succede con la linea. Lorenzo, allora, Lorenzo da Milano. Buongiorno. Buongiorno Lorenzo. Niente, avevo sentito prima la sua introduzione con lo scrittore, no? È un argomento che mi interessa molto. Quel filosofo qui. Ben ci venga, sì. È un argomento che mi interessa, sto leggendo tra l'altro un altro libro di Augias che tratta più o meno Gesù, è un libro su Gesù, quello di Augias, sì. Sì, che ne aveva fatto uno, un altro prima l'anno scorso, proprio sulla vita di Gesù. Vabbè, è già difficile, secondo me, farsi delle domande riguardo alla religione, già dire, caspita, ce n'è più di una, qualcuno sbaglierà. Da un certo punto di vista uno si fa la domanda e dice, caspita, è possibile che tutti hanno ragione, c'è qualcuno che non ha ragione. Poi quando succedono eventi come questo, banalmente da persona così terra terra, uno può pensare, caspita, ma perché accadono certe cose? Perché dopo 300 anni che una città è stata in pratica rasa al suolo, la natura, il mondo, cioè non so chi ha creato tutto, dopo 300 anni ripete come se non guardasse in faccia veramente a nessuno, come se non ci fosse una giustizia da un certo punto di vista. E quindi tu che risposte cerchi di darti, Lorenzo? Sinceramente mi chiedo, ma perché? Perché queste cose? Perché banalmente uno magari può pensare ancora, perché i bambini devono essere ammazzati in questo modo? Bambini di 5 mesi sentivo. Qual è la ragione? Se c'è una ragione, se c'è un Dio che ha creato tutto questo per cosa? E non riesco a darmi una ragione, sinceramente. Quindi Lorenzo, tu fai questa riflessione un po' sgomento e lanci dei dubbi praticamente, senza una risposta. No, forse il dubbio, cioè se non fossi dubbioso, se fossi un talebano da un certo punto di vista, non avrei dubbi e quindi sarebbe bello da un certo punto di vista. Però dall'altra parte dico, no, devo essere un attimino razionale, devo essere un attimino ragionevole e dire, sì, ci può essere il dubbio che ci sia, che non ci sia niente, che da una parte spaventa questa cosa, però da una parte fa riflettere, secondo me. Che cosa fai nella vita, Lorenzo? Faccio l'impiegato. E in questo momento di sabato, la vigilia di Pasqua, se posso chiedertelo, cosa stai... In questo momento, la vigilia di Pasqua... Se si può dire... No, sto andando a comprarmi dei fiori. A comprarti dei fiori? Sì. È bellissima questa cosa. Ti piacciono i fiori, Lorenzo? È bello, le case colorate dai fiori. Poi qualcuno dice, vabbè, i fiori recisi, eccetera, mi fa dispiacere. Però è vero. Poi da un uomo mi piace molto questo pensiero così, questa gentilezza d'animo. Sono appassionato di queste cose, mi piace il giardino, mi piace, le sento vive, quindi... Ti appassioni a queste cose? Quindi mi appassiono. Grazie e Lorenzo. Niente, grazie. Gentile, buona giornata, buona Pasqua. Eccoci ancora insieme, sempre in collegamento dalla California, il filosofo Ermanno Bencivenga, autore del libro La dimostrazione di Dio. E purtroppo io ho anche gli occhi fissi sulle agenzie che escono man mano e vi darò gli aggiornamenti. Continua un po' il conteggio dei morti in Abruzzo. Adesso si parla di un altro cadavere che è stato estratto dalle macerie del palazzo di via 20 Settembre, nel centro dell'Aquila, di fronte alla casa dello studente. E si tratta del corpo di una donna che dovrebbe avere circa 40 anni. E adesso si cerca il corpo anche di un altro ragazzo, un ragazzo che dovrebbe avere 17 anni. Quindi, secondo questo ulteriore aggiornamento, dovrebbero essere 292 a questo punto i morti. Al numero verde 800 24 00 24 c'è Nicola che chiama da Bologna. Nicola, sì, a pronto. Te. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Volevo intervenire per quanto riguarda il concetto che si era accennato anche prima, per quanto riguarda la comunicazione, quanto è veloce, quanto praticamente ci mette praticamente a prima vista situazioni come quella in Abruzzo. Gandhi, io parto con questo concetto che Gandhi diceva che la persona è dove è il cuore della persona e non dove è proprio fisicamente. E, come la comunicazione ci trasporta appunto al nostro cuore in certe situazioni. Mm. Nicola, tu stai facendo le valigie intanto mentre parli? No, sto portando sulla spesa per la mia famiglia, l'avete preso in questo momento. Spero che non sia in difficoltà, sì. Sì, infatti. Quindi, niente, volevo appunto sottolineare come la televisione o internet ci può far vedere situazioni anche giornaliere, senza ovviamente aspettare l'Abruzzo. E quindi quanto è importante la comunicazione, ecco. Nicola, dimmi una cosa, a proposito di comunicazione, una cosa che pensavo in questi giorni. Tu da spettatore, come giudichi il modo in cui, non dico tutti i mezzi di stampa, ma come la televisione ha gestito questa tragedia? Nelle varie trasmissioni qualcuno ha detto che si è indugiato un po' troppo sulle tragedie personali, sulla TV del dolore. Tu come la vivi, il modo in cui la televisione segue questa cosa? Sì. Inizialmente ho sentito un rispetto anche per la situazione che si è creata in Abruzzo e per le stesse persone vittime di questo. Poi onestamente ho visto anche un po' un troppo avvicinarsi a queste persone, insomma, anche senza rispettare il proprio dolore in certe situazioni, insomma, chiedere alle persone che avevano appena perso dei familiari in un momento così veloce, perché in 30 secondi è successo tutto. Sì. E quindi anche fin troppo, diciamo, invasivo, ecco, come intervento da parte di tutti, partendo dalla televisione statale a quelle private. No, su questo io penso, mi piacerebbe sapere poi anche le altre ascoltatrici e ascoltatori cosa pensano di questo, perché è vero che i giornalisti hanno una funzione sociale importantissima in questi momenti, sono loro che pongono i riflettori, illuminano questo buio che le tragedie lanciano appunto sulla popolazione, sugli esseri umani, nei nostri cuori. Però a volte, ecco, la mia categoria lo riconosco, a volte è un po' invadente, certe volte c'è anche un pizzico, diciamo così, di cinismo. Però lascio che siate voi a giudicare, ognuno secondo il proprio modo di vedere, ecco, questa cosa. Nicola, sei arrivato quindi finalmente in casa con la tua spesa? Esattamente, tutto a posto. Hai comprato le cose per domani, allora? Sì, esattamente. Va bene. Esattamente. Buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Sì, tra l'altro lavoro quindi in queste giornate, perché lavoro per una catena da grande distribuzione. Ah. Quindi ti sei rifornito comunque, direttamente, insomma. Esatto. Vi auguro tutti una buona Pasqua e più possibile serena anche. Grazie. Nonostante questa situazione. Grazie Nicola. Grazie ancora per l'intervento. Grazie. A te, grazie. Ermanno, una cosa. Volevo fare un commento. Certo. Perché chiaramente la televisione può essere invadente, io i programmi televisivi italiani non li ho visti, quindi non posso giudicare. Però vorrei anche ricordare che è uno strumento di grande vividezza che può veramente avvicinarci a certe situazioni, anche a certi disastri. Vorrei ricordare, per esempio, lo straordinario valore che hanno avuto le trasmissioni televisive dalla guerra nel Vietnam, quando succedeva. Sì. Nel portare veramente nelle case e aprire gli occhi agli americani, di solito si vedevano, e quindi anche nel generare un sentimento profondo nel popolo americano contro questa guerra. Quindi io credo che una volta che il giornalista televisivo fa il suo mestiere, presenta queste cose appunto con la potenza del suo strumento, è difficile negarle, è difficile negare anche i problemi e gli errori che sono stati commessi. C'è Enrico da Bergamo. Prego Enrico, il numero verde che ricordo per voi ascoltatrici e ascoltatori è 800 24 00 24. Enrico, se tu avessi la radio accesa ti prego di spegnerla, così non sentiamo tutto il riecheggiare. Santa, spenta. Eccoci qua. Prego Enrico. Ok, buongiorno a tutti e ciao. Buongiorno a te, ciao. Guarda, io come dicevo a Gigi, volevo lasciare velocemente. Anzi, Gigi Borghi, lo ricordo, è in assistenza alla regia e prende tutte le vostre telefonate. Bravi. Come la DHL, io dico sempre con mille braccia. Prego Enrico. Mi allacciamo velocemente, se posso dire due cose veloci. Guarda, sì. Una è questo ascoltatore che appunto a cui tu hai fatto la domanda legata al discorso dei mass media, come hanno poi diciamo gestito questa informazione. Io credo che la cosa è, come al solito, quando si parla del dolore si tende a spettacolarizzarlo, esatto. E quindi quando poi invece si vive direttamente il dolore fa male. Io raccontavo appunto a Gigi che purtroppo, o per fortuna, io ho avuto una grande fortuna, ho un bambino che ne ho due, ma uno in particolare che è stato operato al cuore, subito 3 interventi, e quindi ho vissuto, mi sono fatto spesso e volentieri la domanda se esiste o non esiste la su qualcuno, e quindi mi riallaccio all'altro ascoltatore. Sì, che era Lorenzo, sì. Esatto, brava. E quindi io ti dico, guarda, ho visto purtroppo bambini che non ce l'hanno fatta, che hanno una cardiopatia come quella del mio bambino, e ho visto che ce l'ha fatta, peraltro con un sacco di complicazioni. Ora sta bene, però la domanda, siccome io non sono un egoista e poi subentrano tanti meccanismi quando capita una cosa del genere, c'è sempre il perché io sono fortunato e l'altro no. Cioè, se esiste realmente qualcosa, si fa fatica quando poi si vivono determinate esperienze a dare una giustificazione o una risposta così profonda, così grande. Io credo che sostanzialmente abbiamo tutti bisogno di credere in qualcosa. Il dolore non è amato dalla gente, anzi, quello che ho letto in questi giorni di pullman che partono e vanno direttamente a fare la gita turistica dove c'è stato un dramma, che può essere oggi l'Abruzzo, ieri Cogna. Ecco, leggevo che proprio non mi ricordo se il sindaco dell'Aquila o comunque insomma un rappresentante delle istituzioni lì abruzzesi ha chiesto per favore di non fare questo tipo di turismo in questi giorni, né da volontari, perché ce ne sono già a sufficienza, né in altri sensi, ecco, non serve, quindi di non congestionare ulteriormente la zona. Bravo. Se questo è l'obiettivo. Al di là di quello, quando il dolore viene toccato con mano e quindi lo vivi sulla tua pelle, il vero dolore, non quello degli altri, che sembra e fa ancora più male, perché secondo me ci rende tutti più piccoli, no? Quando andiamo lì a guardare, sentire, è una domanda stupida, lei prova dolore quando qualcuno ha perso o no, quella... io la vieterei, la censurerei proprio per principio. La domanda è sempre quella, quindi quando ci sono realtà di un certo tipo viene difficile da gestire secondo me correttamente e si tende a spettacolarizzarle. E tornando a Lorenzo, io a tutti, guarda, io per esigenza mi sono votato a tutti i santi in paradiso e a Manitou, a Buddha, a tutto quello che c'era, guarda. Perché quando hai un bambino che vive, che sta vivendo e tu vivi un'esperienza del genere, hai bisogno devastante. Di... Ma anche la quotidianità diventa devastante della vita, perché certo. Comunque fa male, scava dentro, non hai la consapevolezza della morte, perché quando ti dicono suo figlio potrebbe morire in qualsiasi momento, nonostante il bambino stia bene, ma comunque ti si apre una porta diversa rispetto a quello che è la vita normale di tutti. Quindi diventa difficile veramente credere. Ecco, io non sono un praticante, mi sarei aspettato, e faccio adesso il cinico, ma io sono uno che alle parole non ama le parole, piuttosto che il Papa dicesse vi sono vicino, avrei voluto vedere e ho apprezzato, nonostante su tante cose dissenta da Berlusconi, ho apprezzato che lui sia andato più di una volta in territorio. Da un Papa, al di là dei suoi adepti, mi sarei veramente aspettato non tante parole ma una presenza. Che andasse direttamente quindi all'Aquila, sì, assolutamente, sul posto. Perché comunque in certe realtà non basta dire non soffrite, pregate, si ha bisogno veramente della presenza delle persone. Le parole veramente, io credo che il popolo italiano sia stanco delle parole e tante persone fanno fatica a credere realmente, non tanto se esiste un Padre Eterno o meno, ma in quelli che sono i comunicatori che dovrebbero metterci a contatto con il Padre Eterno, perché diventa difficile, veramente facile dire non pensate alla povertà, non pensate il denaro non è importante, poi lo IOR, la Banca Vaticana, è la più grande potenza economica mondiale e non fa nulla per aiutare i poveracci, è facile dire non provate dolore, non state male, e intanto lui sta seduto là, bello riparato. Io purtroppo sono veramente molto critico verso queste cose, perché a parlare sono tutti bravi, io invece voglio dire, e poi chiudo, un grande grazie a tutti coloro i quali, io ho vissuto i cardiochirurghi, i cardiologi, gli infermieri, quindi tutto il personale che gestisce, che vive sulla pelle, che fa realmente qualcosa, possa veramente essere sempre sostenuto. E loro sono quelli i grandi, le persone che contano, tutto il resto è aria fritta. Io credo che la gente sia stanca, i dibattiti si fanno, io li seguo tutti, guarda, perché poi dopo non ho una corrente specifica, perché sono diventato veramente molto poco, diciamo, credo veramente alle cose solo che vede, quindi, però gli ascolto perché mi piace, mi ascolto dei programmi radiofonici, televisivi. Enrico, ma adesso tuo bambino sta bene comunque? Mio bambino, guarda, adesso lui ha un'ipoplasia al ventricolo sinistro, quindi ha una cardiopatia congenita estremamente complessa. Chi l'ha operato, faccio pubblicità, è Paolo Anacchino, un cardiochirurgo meraviglioso, con tutta la sua equipe ha fatto veramente... Beh, quando sono meravigliosi va pubblicizzata la loro passione per il loro lavoro, la loro... Io ho visto queste persone, ecco perché facevo rapporto con chi è sul territorio o meno, queste persone in ogni momento, in ogni istante, ma posso garantirlo al mille per mille, essere presenti sempre, cioè laddove c'era un problema, io parlo all'ospedale. Meno male che ce ne sono diversi di medici così. Sempre insieme fino alle 15, ascoltatrici e ascoltatori, c'è in collegamento il filosofo Ermanno Bencivenga dalla California, appena pubblicato il libro La dimostrazione di Dio. Ci sono molte telefonate vostre al numero verde 800 24 00 24 per commentare i fatti della settimana, in particolare ovviamente anche il dramma del terremoto. Ermanno, io volevo chiederti questo: se è vero che sull'elenco telefonico di Los Angeles, tu sei Irvine, che è tra Los Angeles e San Francisco o San Diego, più o meno come città? Sì, se è vero che c'è scritto sull'elenco, la prima cosa che c'è scritta è l'elenco telefonico, questa frase, ci saranno sempre terremoti in California, quindi con una specie di monito, e poi dopo tutte le regole, le indicazioni per comportarsi in caso di terremoto, per dire quanto in voi, popolazione statunitense, ma in particolare della California, ricordiamo la faglia di Sant'Andrea, che potrebbe sconquassare la California da un momento all'altro, ma... Siete pronti su questo? Insomma, che tipo di... Guarda, noi viviamo evidentemente in una terra ballerina, io sono 30 anni che vivo qui e ogni anno fra grandi e piccoli ci sono decine di terremoti. Il problema è essere preparati a questa cosa, cioè quando in Italia in una situazione del genere cade una chiesa del Medioevo è una fatalità, non possiamo che rammaricarcene per la perdita appunto di tutti. Ma quando cadono degli edifici costruiti negli ultimi 30-40 anni, qualcuno ha commesso un errore, cioè qui in California di terremoti ne abbiamo costantemente, le case sono costruite in modo antisismico, nel centro di Los Angeles abbiamo grattacieli fino a 60 piani che sono fatti in modo da resistere a terremoti più gravi di quelli dell'Abruzzo. Quando arriva un terremoto oscillano e ovviamente a 60 piani d'altezza l'oscillazione può essere anche di qualche metro, sì. E poi rimangono in piedi. Quindi direi che qualcosa è successo in Abruzzo e in altre regioni italiane quando capitano appunto di questi disastri. Beh, se cade la casa dello studente, l'ospedale, la questura, è chiaro che... Sì, l'ospedale, la casa dello studente, anche le case private, cioè certo. È impossibile... In un paese occidentale, ricco, che fa parte dei G8, eccetera, si costruisca ancora in questo modo. Poi leggevo anche invece le norme sull'edilizia antisismica che regolano, per esempio, che ci sono in Giappone. Il paese, lo ricordo, è colpito ogni anno da oltre il 20% delle scosse più forti registrate a livello mondiale, quindi ci convive praticamente con i terremoti anche molto potenti, e conta il Giappone entro il 2015 di portare, adesso ce l'ha più o meno al 70%, di portare al 90% le costruzioni fatte con tutti i crismi antisisma. E pensate che nelle ultime tecniche antisismiche, molto all'avanguardia in Giappone, si basano sulla realizzazione di veri e propri carrelli, degli edifici anche altissimi, con dei carrelli sotto le fondamenta che quindi annullano praticamente le scosse, soprattutto per gli edifici medio-piccoli, oppure dei grandi ammortizzatori alla base di edifici invece medio-grandi, quindi si ingegnano in questo senso perché sanno che il paese è quello che è da questo punto di vista. Antonella da Roma, al numero verde 800 24 0024. Antonella. Sì, eccomi. Benvenuta. Sono io, stavo ascoltando la vostra trasmissione. Volevo intervenire intanto per dire che comunque non ci sono parole in proposito a tutto questo che è accaduto, però che quando sento determinate cose, forse perché io sono molto cristiana e credente, mi irrita un po', nel senso che praticamente ogni volta che succedono queste cose, la prima cosa che noi uomini diciamo, dice Dio dov'è? Mi sembra un po' esagerato, ma perché? Cioè, io premetto che sono cristiana, ma non sono bigotta, quindi comunque stavo sentendo la vostra trasmissione e condividevo perfettamente quello che diceva il Signore poco tempo fa, del Papa. Enrico. Esatto, no, Enrico, scusami. Che non sta partecipando come in effetti dovrebbe fare una persona di chiesa, in effetti quello è vero. Oddio, sicuramente una cosa mia interna, penso che Giovanni Papa II avrebbe reagito in maniera diversa, però vabbè, poi ognuno è libero di pensare o di dire ciò che vuole. Volevo un attimo mettere il puntino su questa cosa, perché poi alla fine penso che a noi proprio esseri umani manca quell'umiltà di dire cosa facciamo noi per lui, cioè dove sono andati a finire i valori, gli insegnamenti. Spesso e volentieri, secondo me, queste, a parte la tragedia, che sono eventi naturali, che può essere un terremoto, uno tsunami, per l'amor di Dio, però avvengono proprio per la grande corruzione che c'è, proprio per la mancanza di valori, perché poi qui non esiste politica, non esiste nulla, ma esiste soltanto successo, potere, soldi, ed è quello che ci sta rovinando, cioè cercare in qualche modo di essere più umili e di non dire immediatamente, subito, Dio dov'è, ma dove siamo noi? Perché lui ci ha dato il libero arbitrio e siamo noi che in questo modo, in qualche modo, cerchiamo di, secondo me, di sbagliare, sbagliamo. O mi sbaglio? No, Antonella, hai ragione. Per esempio, quando parli di corruzione, soprattutto al di là di essere credenti o meno, beh, per quanto riguarda l'ospedale, che per il 95%, quello dell'Aquila, è inagibile, è proprio una struttura che dovrebbe invece assolutamente tenere ed essere funzionante in queste situazioni. Insomma, ci sono stati 27 anni di sprechi, di ritardi, è costato 9 volte quello che era previsto all'inizio. Quindi, e poi adesso è aperta questa inchiesta, per ora per disastro colposo, quindi senza degli indagati in particolare. Hai sentito anche ieri, si parla di un cemento armato che in realtà era armato dentro di sabbia di mare, quindi che corrode anche poi all'interno le pareti, che poi si sgretolano con grande facilità, no? E quindi significa non fare, in certi casi si tratta di incuria, in certi casi si tratta di vera e propria disonestà e anche di criminalità, se poi queste sono le conseguenze. Grazie Antonella da Roma. Ermanno Bencivenga, volevi commentare qualcosa che è stato detto in questo momento, oppure ti... Ma volevo... Sì. Devo dire che appunto ci sono due piani di discorso, c'è il piano appunto umano, come dicevi tu e come ho detto anche prima, qui ci sono stati chiaramente degli errori e probabilmente dei crimini, quindi di corruzione si può parlare in termini molto concreti. Poi c'è l'altro tema che sollevava Antonella, che è quello appunto biblico, che è naturale per il credente, cioè se voi prendete in mano la Bibbia vi rendete conto che ogni volta che c'è una catastrofe naturale gli ebrei si convincono che sia una punizione per le loro cattiverie, quindi mi sembrava che ci fosse anche questo tema, diciamo, nel discorso di Antonella, che in qualche modo noi non facciamo abbastanza per Dio e quindi siamo puniti per questo. Io non sono credente, quindi questo genere di discorso mi trova abbastanza scettico, però capisco che un credente possa anche pensarla così. Sì, il pensiero di Antonella. Un'altra cosa, poi vorrei sottoporre anche un altro piccolo interrogativo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sempre al numero verde, potete chiamare 800 24 00 24. Volevo sentire Ezilde da Pescara, pronuncio bene? Sì, sì, benissimo, buonasera. Buonasera o buongiorno, insomma, a seconda dei punti di vista. Tu sei tra l'altro da Pescara, chiami Ezilde. Lì, sì, esattamente. Lì come c'è stato un po' di riverbero, no? Un po' di paura c'è stata anche a Pescara, che non è lontanissima dall'Aquila. Sì, ci sono molti conoscenti che continuano a passare le notti in macchina perché non hanno il coraggio di rimanere in casa. Dunque, il mio intervento era relativo invece a tutte quelle dinamiche che riguardano l'etica. Io mi occupo di bioetica da diversi anni e desideravo dire, insomma, che la televisione, con tutta la dedizione appassionata alla causa del terremoto, dei vari operatori, però sappiamo, interessi commerciali estremamente forti, e questi interessi non hanno il pudore poi di esplicitarsi. Lo possiamo vedere tutti i giorni a pomeriggio 5, quando la improvvisata conduttrice Barbara D'Urso, ad esempio, non si astiene dall'interrogare vittime del terremoto mentre sono in preda a piagnistei e evidenti attacchi di panico. Beh, loro poveracci certamente sono in quella situazione. A volte sì, si può un po' probabilmente evitare, avere un pochino più di rispetto. E questo sostanzialmente riguarda la denuncia della mancanza purtroppo ancora oggi di codici deontologici e codici etici all'interno della trasmissione telematica delle informazioni. Zilde, io ti ringrazio, tu anche stai, cioè la tua casa è rimasta intatta, stai tranquilla nella tua abitazione? Sì, abbastanza tranquilla, nei limiti del possibile, insomma. Grazie, quindi il tuo intervento era soprattutto appunto sulla necessità di un codice etico per quanto riguarda l'informazione o le trasmissioni televisive in situazioni in particolare come questa. Sì, certamente, sì. Grazie. Grazie a voi, ciao, Zilde. Buon proseguimento. Buona continuazione anche a te. C'è Francesco da Lodi al numero verde 800 24 00 24. Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. O buonasera, dipende dalla... Sì, allora... più o meno dalla regione, della collocazione geografica in Italia, perché penso più o meno dalla Toscana in giù si tende a dire buonasera. Beh, dopo le 14. Beh, anche a seconda dello stile di vita che uno fa, se uno si alza all'una... Magari preferisco pensare che ancora sia... L'alba. Questo non lo so, ma comunque... Prego, Francesco. Comunque, sì, io volevo dire intanto che forse la spettacolizzazione... Vabbè, non mi viene. Spettacolarizzazione, sì, lo so che è un po' complicato. Comunque, quella cosa lì, insomma, quella il fatto di fare spettacolo di quello che dovrebbe essere informazione. Sì, diciamo che è una tortura dei tempi nostri, però, se vogliamo, è anche causa d'effetto di quella che poi è la... solidarietà di massa, no? Con gli SMS a pagamento, quelle cose lì, che permettono anche una, mi dica se è una lettura errata, voglio dire, no? Il fatto che si possa accedere comunque ad una solidarietà di massa, tra virgolette. Però io volevo intervenire su un'altra cosa. Ma credo che se può avere dei risultati positivi, ben venga, no? Sì, Francesco. La speranza è che sia ripagata questa... tortura, per esempio, sentivo sempre su Radio 24 quel programma della mattina, non mi ricordo il nome, perché sono un po'... Melog, forse? No, su no. Melog, prima, alle... 24 mattina? 24 mattina, sì. Tra l'altro il conduttore è anche fortissimo, perché... però non mi viene il nome, perché non sono abituato a parlare a Radio 24. Ma Milan. Beh, prego, Francesco, con molta tranquillità, abbiamo ancora un po' di tempo, tra l'altro, poi non... Niente, io volevo dire invece riguardo al tema che ha detto prima un ascoltatore e poi ha ripreso un'ascoltatrice prima dell'ultima, sì. Sul fatto della fede. Antonella, sì. Sì, di Roma. Anch'io sono di Roma, anche se abito a Lodi. Io sono buddista, premetto. Capisco che questi discorsi possono essere anche un po' presi, letti male, perché di fronte a una... tragedia del genere, ovviamente chi ascolta, magari che potrebbe essere stato colpito anche personalmente, potrebbe essere anche una cosa superficiale parlarne così, no, in radio. Perché qual è il tuo punto di vista dal buddista, Francesco? La lettura, diciamo, che i cristiani danno, cioè il mio punto di vista, ciò che spiega il buddismo attraverso la teoria del karma, no? Del karma sia personale che anche, vabbè, planetario e via via, familiare e nazionale del territorio. Spiega attraverso il fatto che, essendo la vita infinita, noi non è che nasciamo per caso, in un posto a caso, e nasciamo, diciamo, a condizioni resettate, tra virgolette, rispetto a ciò che è la nostra impronta digitale, personale, per così dire, della nostra vita, che è eterna invece. Quindi quando rinasciamo in un territorio, in una famiglia, in un posto, e capita qualcosa, quando siamo su un aereo e precipita assieme, come dividiamo assieme, almeno in teoria esiste una spiegazione che lungi ci è dato ancora, non ci è dato certamente da vedere, da capire perché. E io... Tu stai parlando di reincarnazione, Francesco? No, del buddismo, che contempla anche quella teoria della... Beh sì, in fondo... E che se quindi, scusa, cerco di sintetizzare, Francesco, di interpretare almeno il tuo pensiero, tu vuoi dire che se succede qualcosa in questa vita, a me, a te, eccetera, è perché in una vita precedente abbiamo combinato qualcosa, questo? Esattamente. È però un po' terribile, cioè, libertà di fede, di religione, di credo ci mancherebbe. È un po' tremendo, però forse è bisogno di dare una giustificazione a una cosa che non si sa come spiegare nella sua tragicità, però pensare che tutti quelli che soffrono terribilmente perché hanno commesso qualcosa... Non so, a me non convince, ma per carità, dico libertà di culto, quindi se questo è la tua posizione, il tuo pensiero, Francesco... Beh, io faccio io una domanda, scusi, non è la cosa simile a quello che diceva prima Antonella, nel senso, Il fatto che esista corruzione, che esista nei nostri tempi. No, io ho dato ragione a Antonella in quel caso nel dire che se cade una casa dello studente, cade un ospedale che è stato fatto pochi anni fa, c'è dentro la sabbia di mare, dentro quello che dovrebbe essere il cemento armato, è perché qualcuno è corrotto, perché qualcuno ci ha mangiato sopra senza scrupoli. Ma io personalmente non attribuisco questo al fatto che poi Dio abbia voluto così. Gli uomini e gli esseri umani il loro destino se lo tracciano anche in buona parte da soli, credo, un po' il caso, un po' la volontà, quindi insomma un po' di responsabilità la devono avere nelle cose, anzi questo dicevo io di Antonella, Francesco, non sì. Che ci fosse una punizione divina, io non credo. Replico solo questo, poi mi tiro indietro perché non vorrei diventare troppo Prego. Stucchevole. Dunque io sì, però voglio dire, a maggior ragione se io appoggio un discorso del genere, nel senso Dio dovrebbe punire altre persone per ciò che corrotti stanno facendo nel loro tempo. Sono più predisposto ad abbracciare una teoria che mi dà la responsabilità sulla mia vita personale di ciò che accade a me. Sì, sì, no, anch'io. Ovviamente se poi abito in una casa che ha costruito qualcun altro, garantendomi che ci sono tutti i crismi nella costruzione, tutto a norma di legge, poi mi crolla in testa, ovviamente se sono ancora viva me la prendo con quella persona. Comunque grazie Francesco da Lodi. Voglio sentire ancora i vostri pareri, i vostri commenti al numero verde 800240024. Sta prendendo una piega un po' particolare questa puntata e lascio sempre che siate voi a dare un po' il segno alla trasmissione in base a quello che vi ispira, ai vostri commenti, alle vostre opinioni. Mariella da Trieste. Buongiorno, buon pomeriggio e buona Pasqua. Buon pomeriggio e buona Pasqua anche a te. Anche al signore che telefona dalle California. Sì, Ermanno Bencivelli. È bravo, perché mi piace molto. Volevo dire sì. Che a me questo tipo di televisione non piace, perché mi sembra che c'è stata un'esagerazione in tutto. A me piacerebbe vedere una televisione che fa degli approfondimenti come Report. Io trovo che Report è fatta molto bene, che va in profondità agli argomenti, è un giornalismo d'inchiesta e proprio va alle radici dei problemi. Certo. Mi piace moltissimo quella signora e penso che nonostante tutto, che va a sviscerare i problemi e anche le responsabilità, non abbia avuto nessuna condanna. Vuol dire che le cose che dice è documentata bene e dice le cose vere. Io l'ammiro per questo, perché ha il coraggio delle sue azioni e del suo pensiero ed è sempre se stessa. La conosco e posso confermare, sì, si capisce comunque. Dopodiché voglio dire che mettiamoci in testa che io penso che dopo 30 anni dell'ospedale o la casa dello studente che risale a 10 anni fa, ci dovrebbero essere i nomi e cognomi, perché le documentazioni dovrebbero esserci. E allora non riesco a capire perché non ci danno i nomi e cognomi di queste persone. Esploso anche il catasto, sì. Ma insomma, ci saranno delle coppie negli uffici tecnici da qualche altra parte, perché non credo, di solito quando si fanno dei contratti ci sono sempre dei duplicati di contratti, no? Dopodiché volevo dire, mettiamoci in testa che l'obiettivo dell'uomo corrotto sono i soldi e ruota solo intorno ai soldi, perché noi, se vogliamo partire da adesso, quando è successo lo scandalo finanziario negli Stati Uniti, che cosa era alla base di tutto? Il denaro. E il denaro è la maledizione del nostro tempo, perché la gente non si rende conto che bisogna guadagnare per vivere e non per arricchirsi a scapito degli altri. E questo è il problema. La morale purtroppo non esiste più. E perché? Perché non c'è una pena, perché questi maledetti, mi scusi il termine, di quello che è successo, io le vorrei vedere in galera, ma tutti quanti proprio, neanche uno, dai politici in poi, agli economisti, a quelli che hanno fatto questo disastro di carattere finanziario e di carattere naturalmente del territorio, perché siamo sempre noi che fanno questi disastri, le persone fanno questi disastri, gli uomini di potere, è questo che vorrei dire. Grazie Mariella. Posso chiederti cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Sono una persona che si interessa di tante cose, non faccio una cosa specifica, ma volevo chiedere al signore Ermanno Bencivenga. Brava, sì. Bencivenga, volevo chiedere una cosa. Sì. Io leggevo prima che c'è stato un ennesimo tornado nel Tennessee e volevo sapere com'è andata la. Adesso perché effettivamente glielo chiediamo Mariella, non so se Ermanno sia subito immediatamente informato anche su questo. Ermanno. Guarda, io ho seguito i tornadi che sono stati ovviamente nel centro dell'America in questi giorni, sono stati devastanti, fra l'altro è una cosa che è difficilissima da prevedere e da gestire, perché colpisce all'improvviso e colpisce a caso, però ovviamente anche su questo c'è una copertura costante. Io stamattina non ho ancora visto il telegiornale, ma quello di ieri mattina ne faceva vedere appunto ampi stralci. E volevo sottolineare, sono completamente d'accordo con la signora Mariella, che se il giornalista televisivo fa bene il suo mestiere, la vividezza del suo strumento diventa un'arma veramente molto importante per smascherare certe cose. Quindi la spettacolarizzazione vuol dire soprattutto superficialità, bisogna usare le immagini per tutto il potere che hanno e poi andare a fondo dei problemi. Adesso c'è sempre il numero verde aperto per voi, 800 24 00 24, però come sempre manteniamo questo piccolo appuntamento con il colonnello Giuliacci. Mario. Ciao Roberta, ciao colonnello. Anche per, a parte che ovviamente molti sono interessati a sapere cosa succederà dal punto di vista meteorologico, certo, soprattutto tra domani e lunedì, ma anche in particolare partiamo dall'Abruzzo, perché è quello che ha reso difficile, ulteriormente difficile in questi giorni, ricordiamo grande solidarietà, l'intervento encomiabile della Protezione Civile, di tutti quelli che hanno gestito i soccorsi, che sono intervenuti con generosità, quindi da una parte sicuramente le critiche giustamente violente e amare a chi ha costruito senza rispettare le norme di legge, le norme antisismiche, dall'altra ricordiamo anche tutta l'Italia che si è mossa per fortuna in questa situazione. Allora, colonnello Giuliacci, proprio in poche parole, in sintesi, intanto in Abruzzo in questi giorni, che c'è stata anche grandine lunedì, sì, martedì. Ci sono stati episodi di maltempo, ma non tale da coinvolgere un'intera giornata. Episodi legati ai venti pomeridiani, proprio diciamo in occasione del secondo giorno in cui era avvenuto l'evento. Adesso vediamo, oggi, sia oggi che domani, c'è la possibilità di qualche temporale pomeridiano purtroppo nella zona, ma questo non significa che il temporale investirà tutte le aree terremotate e che durerà 6-7 ore. Sarà il classico temporale, come siamo abituati a vedere nel periodo primaverile estivo, che dura un'ora e che colpisce un'area limitata. Dice, era meglio se non ci fosse stato, però vuol dire sono eventi tali da non creare eccessivo disagio. Ecco, questo volevo dire. Diciamo, come dicevo prima, certo, se non c'era era meglio, però non creeranno più disagio di tanto. Meno male. Invece diciamo, le nuvole e la possibilità di situazione più duratura, più insistente, quindi più fastidiosa, tale da compromettere in parte le vacanze pasquali, le festività pasquali, sono quelle legate alle regioni tirrene. Allora, premettiamo, sulle regioni adriatiche, Dolomiti, regioni adriatiche, bel tempo per tutte le festività pasquali, quindi di queste regioni non ne parleremo più, no? Invece dove saranno le nuvole? Sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. Qui ci saranno nuvole sul Piemonte, Liguria, marginalmente l'ovest della Lombardia. Qui ci saranno nuvole sia oggi che domani, che lunedì. Ma a parte le nuvole, dove pioverà? Bene, oggi pioverà, ci saranno rovesci temporali in Sardegna, la Sardegna sarà una delle aree purtroppo più compromesse in queste festività, quindi rovesci temporali in Sardegna, sull'ovest della Sicilia, dei rovesci oggi anche sul Piemonte, sulla Toscana, sull'Umbria e qualche isolato rovescio, dicevo, anche sui rilievi abruzzesi, molisani e sulla Campania. Colonnello, senti, proprio in due parole, domenica e lunedì. Ecco, allora, domenica ancora un rovesci in Sardegna, Toscana, Levante, Ligure, Basso Piemonte, Emilia, al mattino, al pomeriggio rovesci sulle isole maggiori, sul Basso Piemonte, Toscana, zone interne del Lazio, eccetera. Mentre lunedì, bello su tutto il nord, nuvole al centro-sud, rovesci e temporali per Pasquetta, sulle Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Sardegna, la Sicilia e il Foggiano. Le aree che non abbiamo citato, sì, che va bene, insomma, ecco, diciamo un'idea di massima. Non ti chiedo anche sulla California che tempo ci sarà, che c'è Ermanno Bencivenga, un po' troppo lontana forse per il momento dalla portata nostra. Va bene, grazie colonnello Giuliacci, grazie, buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Grazie a tutti gli ascoltatori per le festività, di vero cuore. Grazie. Da parte di Mario Giuliacci. Ciao colonnello. Ermanno Bencivenga, il calcio, per esempio, adesso ci sono le partite, oggi non si è fermata la Serie A, si è fermata la Serie B, ma non la Serie A. E devo dire con sorpresa che diversi allenatori della Juventus, della Fiorentina, della Roma erano contrari, insomma, a fare un po' finta di niente e andare avanti. Tu, dal tuo punto di vista, come la vedi? Ma credo che in certi casi bisognerebbe avere il coraggio di fermarsi a pensare alle cose che contano. La distrazione ad ogni costo mi sembra anche in qualche caso problematica, se non colpevole. Io intanto, prima abbiamo ancora due minuti, ringrazio Pietro Lacorte alla parte tecnica e c'è, come dicevo, Gigi Borghi invece l'assistenza in regia. Ci sono ancora delle telefonate al numero verde 800 24 00 24, abbiamo veramente ancora pochi istanti. Chiedo a Ermanno se volevi fare un commento di conclusione. Ricordo che ha appena pubblicato La dimostrazione di Dio, se lo volevi fare appunto sul tuo libro o su quanto detto sinora o dal tuo osservatorio californiano su quanto succede in Italia. Ma guarda, il mio libro si occupa di come i filosofi per 2000 anni hanno cercato di capire e dimostrare le affermazioni della fede, in particolare l'esistenza di Dio. Chiaramente, come ho detto anche in trasmissione, questo ha un legame anche con i fatti tragici che sono avvenuti in Italia questa settimana, però siccome appunto io poi non sono credente, mi risulta soprattutto importante capire gli errori e eventualmente i crimini umani che sono associati a questa disgrazia. Vorrei anche ricordare che qui in California siamo abituati a gestire i terremoti, per cui abbiamo anche dei sismologi molto preparati che sono in grado di seguire tutto il pattern di scosse preliminari che preludono un evento del genere. Se non sbaglio, questo pattern si era verificato in Abruzzo e quindi probabilmente qualcosa si doveva fare, oltre appunto a costruire le case diversamente, anche fare attenzione a quello che stava per capitare. Grazie, allora grazie infinite a Ermanno Bencivenga, che è stato con noi un'ora dalla California, dalle 5 alle 6 del mattino, la sua ora, il suo fuso orario. Grazie Ermanno, buona Pasqua a te, anche se lì, tu forse da italiano, però in California, so, negli Stati Uniti non si festeggia oggi. Grazie Ermanno. Una domenica come un'altra per noi. Beh, che sia una buona domenica allora, grazie Ermanno. E che sia grazie invece tanti a voi. Una buona domenica e una buona Pasqua, il lunedì dell'angelo, insomma, nei prossimi giorni, per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ringrazio per la partecipazione, per l'ascolto, per la voglia di intervenire. Ovviamente sarà una Pasqua un po' diversa, tutti un po' abbiamo una maggiore consapevolezza e diciamo un po' questo dolore nel cuore, credo spontaneamente ce lo portiamo tutti, è sicuramente un momento diverso questo, quindi un po' un pensiero a chi sta vivendo questa tragedia in Abruzzo. In questi giorni possiamo benissimo avercelo, possiamo avere lo spazio in questi giorni per pensarlo. Grazie, Roberta Giordano vi dà appuntamento con Non ci sono più le mezze stagioni sabato prossimo, con Storielle invece se volete domani dalle 19:00.